Capitolo 17. Mühlhausen, Turingia, 20 settembre 1524. Articolo 1. Avanziamo umilmente la richiesta che d'ora in poi l'intera comunità possa esercitare il diritto di scegliere e di nominare direttamente il suo parroco. Articolo 2. È nostra volontà che d'ora in poi la decima sul grano venga raccolta dai membri del presbiterio scelto dalla comunità e lasciata al parroco quanto basta per un adeguato sostentamento suo e dei suoi. Ciò che rimane deve essere diviso tra i poveri del paese a seconda dei loro bisogni. Articolo 3. Finora è stata consuetudine quella di considerarci proprietà personale del Signore. Cosa riprovevole se si pensa che Cristo, col suo sangue prezioso, ci ha riscattato e redento tutti, senza eccezione. Non dubitiamo allora che voi, in quanto veri cristiani, ci libererete dalla servitù della gleba. Poco dopo il vespro, una notizia si mescola all'odore di birra che comincia a riempire i boccali. Hanno messo dentro un tale, mezzo ubriaco, che ha insultato il borgomastro. In breve non si parla di altro. Chi era il tale? Che gli ha detto di preciso? Dove è successo? Si viene a sapere che l'hanno rinchiuso nei sotterranei del municipio e la cosa fa incazzare tutti. Molti si alzano in piedi nervosamente, battono i pugni sul tavolo, escono per avvertire quanta più gente possibile. Questa volta ce la pagano quei bastardi. Metto il naso fuori dall'osteria. Mezzo sobborgo di San Nicola è sceso in strada e le grida si ingrossano rotolando da un labbro all'altro. I più eccitati, con ancora i boccali o i pettini da telaio stretti in mano, come sorpresi da un'imboscata nel cuore della notte, salgono a passi nervosi il selciato che conduce alla porta a Felca e alla chiesa di San Giacomo. Cercano il magister. Scende, attorniato da un pulsare di voci, impaziente di esporgli le proprie convinzioni sul da farsi. Poco sopra di noi, il gruppo rallenta e comincia a ingrossarsi naturalmente in corrispondenza della locanda dell'Orsa, dove la strada si allarga in prossimità del lavatoio. In un mese da che siamo qui, ho avuto modo di apprezzare come il fantasma dell'agitazione sia un abitante in più di questa città. Tuttavia, non capisco del tutto una simile reazione a un arresto che non ha niente di eccezionale. Non si sa nemmeno chi sia finito dentro. Solo un particolare fa da perno al correre delle voci. Il malcapitato ingiuriatore è stato rinchiuso nei sotterranei del municipio, mentre avrebbero dovuto utilizzare la torre dello stesso palazzo. «Cos'è questa storia della torre e dei sotterranei?» chiede un anziano che osserva la scena di fianco a me. «Ottavo articolo del nostro ordinamento municipale. Mai più incarcerazioni nei sotterranei, ma solo nella torre. Vedessi che fogna sono quei sotterranei, capiresti che non è questione di codici». Alzo gli occhi sopra le teste. «Magister Thomas!» è già in piedi sopra un paracarro. Urla contro il sopruso e lo sberleffo al popolo. Sotto di lui un via vai continuo di gente che corre a chiamarne altra e va a raccogliere attrezzi e pietre. In mezzo alla folla Elias si fa strada verso di me. Quando mi vede grida più alto di tutti: «Va a cercare Pfeiffer! Digli che tra non molto saremo sotto le finestre del municipio e che porti quanta più gente può». Di corsa fino alle mura. Mi faccio riconoscere dalla sentinella. Nessun problema. Evidentemente non si aspettano alcuna reazione. Sempre correndo, imbocco la china a sgasse. Un clamore al fondo della strada, verso la chiesa di San Biagio, mi informa che Pfeiffer non ha perso tempo. Non appena giro l'angolo e gli compaio di fronte, anche lui, in piedi su un pulpito improvvisato, interrompe a metà l'arringa e indicandomi si mette a gridare: «Ecco! Ecco un messaggero del sobborgo di San Nicola! Senz'altro viene a dirci che Thomas Münzer e i suoi sono sconvolti dalla decisione di quel maiale del borgomastro. Non è vero, fratello?» Le teste dell'uditorio ruotano verso di me come un campo di girasoli. «Certo, fratello Pfeiffer. Dalla porta Felca, quelli di San Nicola muovono già verso il municipio». Mentre mi avvicino a quella piccola folla, Pfeiffer salta giù dal suo fittone e mi corre incontro. Mi getta un braccio intorno alle spalle e sussurra: «Di, fratello, in quanti sarete là da voi?» Esagero. «Su 200 potete contare», mi arpiona la clavicola. «Bene, questa è la volta che ce li fottiamo». Poi, a voce più alta: «Si pentiranno di questo affronto, parola mia! Al municipio, fratelli, al municipio!» Le sue parole sono già grido di battaglia. Non so come siano spuntati i forconi, le torce e le spranghe. Semplicemente, a un certo punto, svettano sulla foresta di teste, molto più spaventosi delle alabarde degli sbirri che chiudono l'accesso al palazzo. Uno di loro si lancia su per le scale a chiedere istruzioni. Torna seguito da una quindicina di altri sgherri. La discussione si accende nelle prime file. Circola la notizia che l'insulto preciso rivolto da Willy Pustola al borgomastro Ruderman sia stato un «baciami il culo», accompagnato da un'esibizione del posteriore. Per molti si tratta di un invito fin troppo esplicito a ripetere il gesto e decine di culi prendono di mira il municipio. Improvvisamente là davanti un boato. Spingo e mi aggrappo per vedere meglio, pregustando già la scena dell'umiliazione definitiva di Ruderman. Invece vedo Elias che solleva di peso, alto sopra le spalle, un piccoletto di mezza età, con la testa quasi pelata e il naso paonazzo pieno di bugni. Grida di gioia, mani tese, lo accolgono e lo sbalzano sopra le teste. «È Willy! È viva Willy, rotto in culo di merda! Viva Willy, topi di fogna, grande Willy!» La folla lo porta in trionfo attraverso la piazza. Una ragazza sulle spalle di qualcuno gli scopre le tette davanti e Willy ci si butta a pesce come un miracolato. Gli tirano verdure e dolci che lo imbrattano dalla testa ai piedi. Ridendo gli grido «Viva Re Willy! Viva l'eroe della gente di Mulhausen!» E l'ubriacone, come se mi avesse sentito, si gira nella mia direzione e fa un segno di benedizione nell'aria. Un attimo prima che un cavolfiore lo centri in piena faccia.